istinto non credo ci sia un destino, sai. Ho voglia di sesso e amore e non mi importa dove inizio o finisca, né l'uno né l'altro per me. Passione al tuo nome. La la la la la la la la la la la la la la. Mi accendi gli occhi ed il sangue scorre sul tuo corpo. Non placherò le mie voglie. Mi chiami amore, mi dici amore mio, ma cosa chiedi? Ma cosa chiedo a te? Mi chiami amore, mi dici amore mio, ma cosa chiedi? Ma cosa chiedo a te? Vivo come un selvaggio dei tuoi respiri e del tuo viso che attende un bacio. Ma quell'animale che c'è in me lo hai ucciso e tra le tue labbra adesso imparo il linguaggio. La la la la la la la la la la la la la la la. Del sentimento più forte il sapore, se la risposta è amore, la domanda qual è? Mi chiami amore, mi dici amore mio, ma cosa chiedi? Ma cosa chiedo a te? Mi chiami amore, mi dici amore mio, ma cosa chiedi? Ma cosa chiedo a te? Scassa a me la mossa, ti prendere a morsi, strappando carne dalle tue ossa. Ma non mi lasci, che stupore è della tua pelle a rendermi uomo, né è l'odore. La la la la la la la la la la la la la la la. Sul tuo corpo non placherò le mie voglie. Mi chiami amore, mi dici amore mio, ma cosa chiedi? Ma cosa chiedo a te? Mi chiami amore, mi dici amore mio, ma cosa chiedi? Ma cosa chiedo a te? Cielo e terra, sole e vento, sono nato per starti accanto. La tua pelle, le mie labbra, una luce che mi piace. Mi chiami amore, mi dici amore mio, ma cosa chiedi? Ma cosa chiedo a te? Mi chiami amore, mi dici amore mio, ma cosa chiedi? Ma cosa chiedo a te? Non dirmi amore, non è neanche questione di sesso. Puoi anche non parlare, ti sentirò lo stesso. E con queste dita sulla tua pelle, fin dentro i tuoi occhi, mi traccerò un'orbita. Mi chiami amore, mi dici amore mio, ma cosa chiedi? Ma cosa chiedo a te? Mi chiami amore, mi dici amore mio, Ma cosa chiedi? Ma cosa chiedo a te? Del sentimento più forte è il sapore. Se la risposta è amore, la domanda qual è? Sotto questo cielo, sopra questa terra, tu per me sei casa.